Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, bentornati a Salva Danaio. Riprendiamo dopo la pausa estiva la nostra trasmissione dedicata agli investimenti delle famiglie, ai loro risparmi, alla gestione dei budget familiari, a come viene destinato il reddito che le famiglie percepiscono. Insomma, riprendiamo a cavalcare i temi che vi piacciono particolarmente e oggi ritorniamo su un tema al quale siete particolarmente affezionati. Parliamo della casa di proprietà. Siete pronti ad acquistare la vostra abitazione? Il mercato immobiliare non è tornato ai fasti di qualche anno fa, ma comunque le compravendite in Italia, anche se a ranghi un po' ridotti rispetto ai record del 2004-2005, appunto il mercato immobiliare naturalmente continua ancora a viaggiare, ma quello della compravendita, come sapete, è un ambito sul quale la legislazione negli ultimi anni è intervenuta davvero molto spesso, soprattutto allo scopo di far venire a galla tutta l'evasione che grava intorno alle compravendite immobiliari. L'ultimo intervento lo ha fatto la recente manovra correttiva che ha introdotto la cosiddetta redazione tecnica di conformità catastale, che va allegata al rogito, cioè all'atto di compravendita dell'immobile. In cosa consiste questo nuovo impegno e con quali altri documenti dobbiamo presentarci davanti al notaio nel giorno in cui si stipula appunto il cosiddetto rogito? Oggi spiega tutto con grande chiarezza Affari Privati del Sole 24 Ore. Il pezzo si intitola Abitazioni con le carte in regola. Ecco i certificati che attestano il rispetto delle prescrizioni in tema di sicurezza, classe energetica e catasto. E allora oggi due notai a nostra disposizione, ma soprattutto a vostra disposizione, per orientarci bene in questa materia, in questi aspetti, e con i quali chiariremo che questi certificati, di cui parleremo a lungo nella nostra trasmissione, non sono obbligatori al 100%, ma permettono comunque di farsi una chiara idea di quanto può valere anche un immobile, l'immobile che stiamo acquistando, di quanto consuma, e sia il catasto risultano per esempio tutte le modifiche che nel corso degli anni sono state fatte all'immobile che ci interessa. Allora, buongiorno al notaio Angelo Busani, esperto del Sole 24 Ore, uno storico collaboratore appunto del quotidiano, oltre che naturalmente proprio notaio. Notaio Busani, buongiorno. Buongiorno a tutti anche da parte mia. E grazie di essere intervenuto, di essere ritornato a Salva Danaio, e ringrazio invece di essere nostro ospite per la prima volta Gabriele Noto, anche in questo caso notaio, consigliere nazionale del notariato con delega peraltro alla comunicazione, notaio a Verona. Notaio Noto, benvenuto. Buongiorno a lei e anche al collega Busani e a tutti gli ascoltatori. Benissimo, allora siete pronti naturalmente ad essere sottoposti al consueto fuoco di fila appunto degli ascoltatori che sono sempre molto interessati a queste novità. 800 24 00 24, numero verde che dà modo agli ascoltatori di intervenire in diretta, che ci possono però, oltre ovviamente a prenotare il loro intervento al nostro centralino, possono anche scriverci al 349 238 66 66. Prima di entrare nel vivo di questo argomento, chiaramente la borsa, ritorniamo alle vecchie abitudini dando anche uno sguardo a quello che accade sui mercati finanziari. La settimana dalle prime avvisaglie sembrava voler partire in maniera molto tranquilla, con gli indici che si muovevano molto poco nelle prime battute. Adesso invece c'è maggiore energia rispetto all'avvio di contrattazioni, con Parigi che sta salendo dello 0,88%, Francoforte più 0,40%, Londra più 0,69%, Milano più 0,54%. Stamattina è andata male la seduta a Tokyo, Nikkei meno 0,7%, il listino nipponico sta viaggiando sui minimi degli ultimi 9 mesi. Abbiamo Piazza Affari che premia in questo momento particolarmente l'automatica più 2%, Italcementi più 1,82%, UbiBanca più 1,67% in recupero dalla debolezza della settimana scorsa, quando è stato fra i titoli più penalizzati. Bene negli altri titoli bancari anche Intesa più 1,56% Exor, quindi oggi sotto i riflettori la galassia Fiat per le agitazioni di Melfi. Oggi è la giornata cruciale per il reintegro famoso dei 3 dipendenti licenziati dal gruppo per le agitazioni sindacali, reintegrati da un giudice. Il gruppo ha detto che non intende farli continuare a lavorare, pur se ha già detto appunto che ottempererà naturalmente in termini riconoscimento dello stipendio a quanto ha stabilito il giudice. Ma oggi è una giornata piuttosto importante per vedere proprio come si evolverà questa vicenda. Exor, dicevamo, guadagna l'1,48%, Fiat in apertura perdeva più di un punto e adesso invece recupera. Sta guadagnando lo 0,7%. Fra i titoli in ribasso, Eni, meno 0,26, questo è il peggiore, per cui perde poca cosa. Terna, meno 0,08, e questi sono gli unici 2 titoli negativi a Piazza Affari in questo momento. Euro su dollaro a 1,26,97, petrolio sui $74 al barile, sia a New York che a Londra. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo a parlare di casa, ma soprattutto di abitazioni con le carte in regola. Possedere una casa in regola dal punto di vista catastale, energetico e della sicurezza sta diventando sempre più importante e in molti casi obbligatorio per evitare difficoltà nonché pesanti sanzioni in caso di compravendite, donazioni o divisioni ereditarie. Al momento del rogito, che pure è già complesso da molti punti di vista, non ultimo quello emotivo, sarà bene quindi verificare di essere in possesso di 3 indispensabili certificati. In primo luogo, quello di agibilità, che attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Se il venditore non è in grado di presentarlo, l'acquirente può decidere di non comprare o farlo pesare nella trattativa sul prezzo. Fondamentale poi l'attestato di certificazione energetica, che classifica le prestazioni e l'efficienza di un edificio attribuendogli una fra 7 diverse classi, dalla A alla G, e permettendo quindi i dovuti confronti. Infine, molta attenzione va prestata alla dichiarazione di conformità catastale, introdotta dalla manovra finanziaria estiva e obbligatoria dal 31 luglio. Attesta l'allineamento di un immobile con le planimetrie depositate al catasto ed è necessaria anche nel caso di importanti interventi di ristrutturazione, come ampliamenti o ridistribuzioni degli spazi. E vi ricordo ancora il numero verde per prenotare i vostri interventi. Ritorniamo alle nostre vecchie abitudini. L'intervento in diretta è possibile chiamando l'800240024, oppure per i più timidi c'è l'opportunità di scriverci al 349-238-6666. Allora, naturalmente, per essere anche così carini, visto che è la prima volta che interviene a Salva Danaio, faccio sciogliere il ghiaccio al notaio Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato, oltre che notaio a Verona, che peraltro per la costruzione della pagina del Sole 24 Ore di cui parlavamo e dalla quale abbiamo tratto spunto proprio per realizzare questa puntata, è stato lungamente interpellato dal collega che documentato tutto il tema, Andrea Curiat. Notaio Noto, dicevo, quanto è pesante oggi il fascicolo notarile che accompagna e sigla un atto di compravendita immobiliare? Perché alla luce di tutte le novità che abbiamo parlato, insomma, abbiamo l'impressione che effettivamente si tratti di un faldone abbastanza pesante, oppure, come dire, è tutta una considerazione piena di pregiudizi? Beh, intanto per sciogliere ghiaccio non dovrebbe essere difficile, visto che ci sono 30 gradi più o meno dappertutto, sì, quindi infatti, almeno infatti. Da quel punto di vista non dovrebbe essere difficile. Il faldone del notaio è diventato sempre più pesante, come ho detto al suo collega Curiat, perché a partire dal 1985, l'anno in cui il legislatore è intervenuto pesantemente sulla materia urbanistica, il compito del notaio si è allargato vie più appunto alla materia urbanistica, fiscale e anche amministrativa, e questo quindi ha comportato un incremento non solo dei fogli di carta all'interno del faldone, ma anche dei controlli e delle nozioni in aggiornamento alle quali noi abbiamo dovuto far fronte. Ora la materia, se vogliamo, è sempre meno giuridica e sempre più tecnica, però insomma, se noi vogliamo garantire effettivamente un risultato complessivamente valido come quello che vogliamo garantire, dobbiamo anche occuparci di questioni che non sono specificamente insegnate nelle aule dell'università. Allora io ne approfitto anche per ricordare, notaio noto, l'elaborazione della vostra ultima guida. Il Consiglio Nazionale del Notariato ne ha redatte parecchie, proprio per far luce su tutte le modalità operative e pratiche che possono, che conducono all'acquisto della casa. L'ultima guida, che si può scaricare non solo dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato ma anche dai siti delle 12 associazioni dei consumatori che hanno contribuito alla sua stesura, è la guida appunto all'acquisto certificato, agibilità, sicurezza ed efficienza energetica degli immobili. È l'ultima uscita, dicevo, se non ricordo male, è stata pubblicata fra giugno e luglio e quindi purtroppo non contiene tutte le novità relative alla redazione tecnica di conformità catastale, perché questa è entrata in vigore con il decreto legge 78 del 2010 che è stato poi convertito in legge con il provvedimento 112 sempre di quest'anno, e quindi parliamo di un provvedimento che è entrato in vigore a fine luglio, quindi queste novità, se non ricordo male, notaio noto, non ci sono, giusto? No, non ci sono, il decreto mi pare sia il 122, che è un numero molto ricorrente nelle leggi che riguardano, è tutta una casualità naturalmente, però il numero 122 del decreto ricorre abbastanza come cabala, e comunque queste novità noi dovremo anche aspettarcene probabilmente altre, perché sono tutte cose che vanno poi coordinate in corso d'opera, ma noi contiamo naturalmente sempre con questa sinergia con i consumatori di aggiornare i cittadini nel miglior modo possibile e anche nel modo più semplice possibile, rendendo facili delle cose che possono sembrare all'apparenza complesse. E infatti, anche perché questo è un aspetto che abbiamo spesso sollevato non solo con i notai ma anche con altri professionisti del ramo immobiliare, molto spesso quando ci si accinge all'acquisto della casa la prima cosa che si fa è naturalmente cercare la casa dei nostri sogni. Questo è legittimo, è naturale che avvenga, ma solo dopo si affronta per esempio il tema della sottoscrizione del mutuo, e quindi solo dopo si accerta se la banca è disponibile ad erogarci il finanziamento, e magari qualche volta si dà una caparra al possibile venditore ma senza aver verificato che poi tutto il mutuo rimanente la banca effettivamente sia disposta a darcelo. E altra cosa è lo stesso appunto tutta la documentazione che deve essere redatta o va a corredare appunto il rogito. Molto spesso ci sono dei documenti che pensiamo che sia normale che per esempio il venditore abbia e che invece molto spesso non ce le ha, perché magari è una casa di proprietà che ha tanti anni e non è detto che abbia per esempio un certificato di agibilità. Ci può sembrare scontato, ma notaio Busani, non è detto che invece il venditore disponga di questo documento che dovrebbe essere proprio, come dire, alla base della proprietà, o no? Beh, specialmente se vende un castello medievale, ovviamente scherzo. Il contratto di compravendita immobiliare è un contratto che ha una sua propria storia a seconda del caso specifico. È sbagliato generalizzare perché ormai la complicazione normativa è tale. I casi regolati dalla legge con norme imperative, quindi con norme da cui non ci si può discostare, sono tanti e quindi non si possono fare di discorsi generalisti. Volendo comunque farlo e interpretando in tal senso lo spirito della trasmissione e in particolare focalizzando l'attenzione sul certificato di agibilità, è ovvio che tutte le costruzioni realizzate di recente, negli ultimi diciamo due decenni, tre decenni, è chiaro che queste costruzioni debbono essere dotate di questo requisito. C'è però da fare due precisazioni. Molte costruzioni sono anteriori a questo periodo e quindi è difficile che il certificato di agibilità ci sia o si trovi addirittura. In secondo luogo c'è da dire che per effetto di una recente legislazione il certificato di agibilità è stato ricompreso nella normativa sul silenzio assenso e quindi in molti casi anche di immobili recentissimamente costruiti un documento cartaceo con scritto sopra certificato di agibilità non c'è, perché il provvedimento amministrativo che attesta l'abitabilità di un fabbricato si forma per silenzio, vuol dire che si forma mediante il trascorrere di un certo tempo dal momento in cui il soggetto interessato ha depositato in comune tutta la documentazione idonea al rilascio del certificato di agibilità. Alcuni comuni sono particolarmente diligenti e forniscono un certificato di avvenuto rilascio per silenzio del certificato stesso. A mio parere farebbero prima rilasciare il certificato che questo certificato di formazione del silenzio, ma comunque fatto sta che è ovvio che se io compro una casa debbo poterci abitare, ed è ovvio che la carenza di agibilità di una casa genera che il contratto non ha per oggetto una casa ma un'altra cosa, e quindi il contratto non vale. È anche vero però che in molti casi, vuoi perché l'edificio è vecchio, vuoi perché si è formato il silenzio assenso, un foglio con scritto certificato di agibilità spesso sul tavolo non c'è. Non esiste, anche perché appunto, come specifica il Sole 24 Ore, lei lo diceva, la mancanza di questo attestato non preclude la commerciabilità di un edificio, di un immobile, ma se in un atto di compravendita questo documento non c'è, appunto perché magari l'oggetto della compravendita è proprio un immobile che ha 40 anni, notaio Busani, e le parti, come dire, non riescono ad arrivare ad una chiusura della trattativa proprio perché magari l'acquirente si incaponisce e questo certificato lo vuole. Che cosa può fare il venditore per poter soddisfare la richiesta del possibile acquirente? Deve rivolgersi al comune, rifarsi rifare un documento? C'è un tecnico che può entrare in casa ed eventualmente fare una dichiarazione di questo tipo, la certificazione di agibilità? Ma guardi, la risposta dipende anche qui dal caso concreto. Mi immagino che se un acquirente desidera la certificazione di questa qualità dell'immobile su un pezzo di carta, credo abbastanza complicato che il comune lo possa rilasciare se non è mai esistito. Credo più facile che il compratore, così come si accerterà che gli impianti funzionano, che le finestre si chiudono, che la porta si apre, che i pavimenti e i sanitari non sono sbeccati, così incaricherà un proprio tecnico di fiducia per verificare questa qualità dell'immobile. C'è anche da dire che se un immobile è di 40 anni ed è ancora lì, cioè non l'hanno ancora demolito, vuol dire che è abbastanza abitabile. È abbastanza agibile. E infatti le risulta che ci siano mai state compravendite saltate perché questo certificato non spuntava, notaio Busani? Capito? No, nella mia esperienza no, anche perché noi abbiamo una regola di base che è quella del 1967. Tutto ciò che è stato costruito prima, fatemela dire in superficialità, si considera legittimamente sanato, costruito e abitabile. Dopo il 67 si incomincia a disquisire su irregolarità che generano incommerciabilità, le quali sono una minor parte, e irregolarità sanabili, ma che non generano incommerciabilità. Poi si apre un ulteriore problema, che è quello: debbono essere necessariamente sanate per poter essere vendute, oppure ad esempio l'acquirente si può far carico anche di una situazione irregolare? Tutto questo ragionamento che si faceva fino al primo di luglio adesso è di nuovo cambiato, perché, come avete detto nella vostra scheda e come c'è scritto sul giornale oggi, come abbiamo scritto sul giornale tante volte nel recente passato, oggi non si può più vendere un qualcosa che non sia correttamente raffigurato in catasto. Per essere correttamente raffigurato in catasto significa che l'immobile deve essere costruito legittimamente. È abbastanza strano configurare un caso di irregolarità urbanistica fotografata regolarmente in catasto. Quindi si apre tutto il problema della conformità delle carte, quelle catastali specialmente, allo stato di fatto dei beni immobili. Insomma, è un bel lavoro che sta toccando in questo momento proprio alla vostra categoria. L'altro tema sul quale invece molto ben ferrato, non perché non lo sia sugli altri argomenti, ma sul quale è stato interpellato di più, è il tema dell'attestazione di certificazione energetica, l'ACE, delle abitazioni. Adesso su questo punto vado tra qualche istante proprio per chiarirlo e per ritornarci, anche se gli abbiamo dedicato veramente una marea di puntate a Salvadanaio, ma comunque, come dicevo, siccome le compravendite continuano e ovviamente molto spesso noi ai problemi pensiamo quando ci ritroviamo a doverli gestire direttamente, quindi non è perché si è sentita una trasmissione in radio, abbiamo riflettuto sull'attestazione di certificazione energetica di una casa, chiaramente ci poniamo il problema nel momento in cui la vogliamo comprare, quindi aggiorniamo e rinfreschiamo il tema per tutti gli ascoltatori che si stanno ponendo adesso la questione. Però vorrei anche cominciare a sentire gli ascoltatori che ci chiamano da casa all'800 24 00 24. forse non l'ho citato, il notaio noto poco fa quando dicevo appunto che il suo tema è quello particolarmente dell'attestazione di certificazione energetica. Adesso notaio, con lei ritorno su questo punto, però vorrei anche sentire Gianfranco dalla provincia di Rimini, con il quale inauguriamo il nuovo corso di Salva Danaio e la puntata di stamattina. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno a lei, dico complimenti per la trasmissione e grazie dell'opportunità. Grazie a lei. Soltanto una domanda: io ho una casa che ha circa 30 anni, è a posto, è una villetta e quant'altro. Negli ultimi, non voglio vendere, non voglio far niente, voglio soltanto, diciamo, sistemare le cose a livello burocratico. Negli ultimi anni ho fatto tutto quanto erano, diciamo, state discutendo voi a livello energetico. Ho sistemato il cappotto, ho sistemato la centrale termica, ho messo i pannelli solari, tutto qua. Vorrei sapere cosa devo fare perché tutto questo risulti a livello catastale, diciamo, domani per un evento, certo, nel momento in cui la voleste vendere, che cosa fare per adeguarla, proprio per dargli la cosiddetta conformità catastale, Gianfranco. Esatto. Mi sembra una domanda davvero pertinente, oltre che interessante, perché a parte il fatto che ha riqualificato dal punto di vista energetico radicalmente, mi sembra, questa abitazione, magari anche per lavori di minor importo, di minor impatto, di minore entità, la conformità catastale appunto va fatta lo stesso. Notaio noto, ci aiuta subito lei in questo? Beh, intanto una cosa voglio dire brevissima sui certificati di agibilità. Sì. Come molti miei colleghi, io trovo che il silenzio assenso sull'agibilità sia una lacuna che va coperta, perché ai cittadini noi dobbiamo cercare di dare delle risposte chiare, e il fatto di giocare su un silenzio assenso il cui verificarsi potrebbe anche essere fonte di discussione, credo che non sia un buon viatico per la chiusura della trattativa migliore. Quindi, in linea di principio, io suggerisco proprio che si copra questa lacuna, che il certificato venga sempre rilasciato. Per quanto riguarda il caso dell'ascoltatore, se la sua casa ha una trentina d'anni, quindi è posteriore alla fatidica data del 1 settembre 1967, dovrebbe già avere, da un punto di vista urbanistico, le concessioni e l'agibilità, quindi sul piano funzionale non avere problemi. Sul piano catastale non vi è interferenza rispetto alla questione impianti o certificato energetico. Un conto è la conformità con la planimetria catastale, che si può facilmente verificare con una visita o un'indagine di fatto. Un conto è la documentazione relativa appunto all'ACE o anche alla certificazione degli impianti, che può essere tenuta a parte e consegnata all'acquirente come sinonimo anche di precisione e di accuratezza da parte del venditore. Ma qualora se in questi lavori che hanno voluto portare risparmio energetico nell'abitazione di Gianfranco avesse anche abbattuto e modificato per esempio la disposizione di alcuni muri, e quindi si è modificata la planimetria, di conseguenza si sono fatti dei lavori che rendono necessaria la comunicazione al catasto, perché la planimetria di fatto è cambiata, notaio noto? Sì, beh, può capitare, anche se non è molto frequente, che i lavori che riguardino la certificazione energetica possano interferire con la rendita catastale. Anche perché, esatto, lui ha parlato di un cappotto, di pannelli solari, magari avrà cambiato per esempio gli infissi, non lo so, però ecco, effettivamente magari muri non ne ha abbattuti, però ammettendo che avesse fatto, deve presentare una nuova planimetria catastale, però laddove solo cambi il perimetro dell'immobile, quindi con un aumento magari della volumetria, cosa che un semplice cappotto non fa, ci sia una redistribuzione totale degli spazi interni, quindi con una modifica radicale della sistemazione, e comunque ci siano tutti quegli interventi che implicano un aumento della rendita catastale, in tutti questi o del cambio di categoria o di classe. In tutti questi casi va aggiornata la planimetria catastale con una nuova denuncia all'ufficio del territorio. E quindi basta andare in comune, immagino, chiedere un'informazione su come si fa all'ufficio del territorio. Allora, Salva Danaio riprende le sue trasmissioni dopo la pausa estiva, e lo fa, ha deciso di farlo, intanto rubando, come spesso capita, un tema alle Sole 24 Ore. Siccome un tema che vi piace molto è quello della casa, la compravendita immobiliare, lo abbiamo fatto molto volentieri. Questa mattina le pagine di Affari Privati del Sole 24 Ore si soffermano con molti dettagli su tutte quelle certificazioni che vanno fatte adesso a patto anche dell'annullamento del contratto di compravendita, attenzione, per appunto portare a termine questa, l'acquisto o la vendita di una casa. Si tratta del certificato di agibilità, della redazione tecnica di conformità catastale, dell'attestato di certificazione energetica, per molti di noi termini astrusi, ma basta magari farsi prima di avviare l'operazione di acquisto di un'abitazione una chiacchierata con un notaio per capire che non è niente di particolarmente complesso, che il professionista è lì per aiutarci, proprio per fare in modo che ci si possa presentare a rogito con tutta la documentazione in regola. Stamattina ci stanno aiutando a capire qualcosa in più rispetto a tutto questo, anche perché ci sono delle novità che sono arrivate proprio in piena estate, per cui magari qualcuno che sta accingendosi a stipulare un rogito magari non lo sa, e allora attenzione anche a presentarsi. Probabilmente il notaio lo avrà documentato di tutto, ma non è detto che si abbia anche piena coscienza proprio della certificazione che va presentata. E allora stamattina abbiamo disturbato, anche se stanno finendo le loro vacanze, visto che è agosto, Angelo Busani, notaio, collaboratore del Sole 24 Ore, e il consigliere nazionale del notariato, il notaio Gabriele Noto. 800 24 00 24, numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire, di farci delle domande, per naturalmente anche vivacizzare la nostra trasmissione grazie alle vostre esperienze. Allora abbiamo Paola Emilia dalla provincia di Milano, che saluto. Paola, buongiorno. Buongiorno e complimenti tanto per la trasmissione, come sanno tutte le faccio pure io. Bene. Sono una fedelissima. Benissimo, allora ci dica tutto. Pensi che non esco di casa la mattina per sentire la vostra trasmissione. Allora è un incubo per i suoi familiari, Paola Emilia, speriamo di no. Allora, la mia domanda è questa. Dunque, la mia casa è circa degli anni 64. Sì. Ho fatto un piccolo lavoro in casa e l'architetto che mi ha curato tutta la parte burocratica, circa 13 o 14 anni fa, mi ha detto praticamente che io non ero obbligata a segnalare al catasto la nuova planimetria. E io non ho fatto niente, perché lei aveva detto questo, io non ho proceduto, certo, a niente. 14 anni fa. Adesso volevo sapere se io devo chiaramente fare questa, mi ha dato però una piantina della nuova planimetria, però io non ho segnalato niente. Nel caso io dovessi vendere questo certificato, lo devo produrre, ho già capito. Aspetti, lo devo produrre, però io riscappa la... Vabbè, allora guardi, andiamo per ordine intanto. Però se non vendo la casa devo farlo lo stesso, questa segnalazione. Questo aggiornamento. Io però incorrerò a una sanzione. Questo allineamento. Grazie a lei, Paola Emilia. Anche la sua mi sembra una domanda piuttosto pertinente. Allora ritorno al notaio Busani. Una casa che è di circa il 64, è del 64. I lavori in casa sono stati fatti 14 anni fa, peraltro non c'erano neanche, se non ricordo male, perché hanno una decina d'anni forse, gli incentivi del 36% per i lavori di ristrutturazione. L'architetto gli ha suggerito di non fare nessuna segnalazione al catasto per questa modifica interna che è stata fatta all'abitazione. Che obblighi ha adesso Paola qualora dovesse vendere l'abitazione, notaio Busani? Allora, questa è una casa dove al 90% dei casi il certificato di agibilità non c'è. Perché è antecedente al 67. Sì, ma non solo per quello, perché probabilmente adesso dipende il comune dove è, tante cose, però mi aspetto che nella realtà pratica in quel caso il certificato di agibilità non si trovi, ma non ce n'è nemmeno bisogno. La signora ha fatto dei lavori correttamente, adesso a parte che bisognerebbe conoscere il caso concreto, però ragionando in teoria, correttamente probabilmente l'architetto le ha detto una cosa giusta 14 anni fa, perché 14 anni fa cosa succedeva? Che il catasto era invaso, il catasto non era ancora meccanizzato o non era ancora molto meccanizzato, fatto sta che il catasto era invaso dalle pratiche derivanti dal condono edilizio, e a un certo momento, più che per una ragione di diritto ma per una ragione di sommersione dalle carte, l'Agenzia del Territorio, allora non mi ricordo come si chiamasse, ha disposto che le lievissime variazioni non andassero, non dovessero essere comunicate al catasto, perché allora il problema prevalente era quello che il catasto era di carta, non era elettronico, che erano masse di carte che finivano nei cassetti a impolverarsi, che non venivano processate, che non venivano ufficializzate negli atti. Fatto sta che oggi il vento è cambiato, il catasto è tutto meccanizzato, di ritardi non ce n'è più, il catasto funziona abbastanza bene, particolarmente bene rispetto al disastro che vi era qualche decina d'anni fa a fronte del condono edilizio. E oggi il vento è cambiato anche perché la normativa qua di luglio ha detto in sostanza deve esserci conformità tra lo stato di fatto e la rappresentazione catastale. Allora io mi aspetto, anche se non conosco il caso, che quelle variazioni che la signora ha fatto probabilmente incidano sulla rendita, probabilmente, ma anche se non incidono sulla rendita, poi alla fine l'acquirente ha diritto di comprarsi una casa con la planimetria giusta e quindi dal mio punto di vista, anche se queste variazioni catastali non fossero obbligatorie perché non hanno mutato la rendita, ciò che è abbastanza difficile, comunque il fatto sta che la rappresentazione planimetrica è irregolare, mi sembra abbastanza inopportuno mantenere per un acquirente accettare una situazione di questo tipo. Quindi mi viene da dire che tutto a posto quello che è stato fatto, probabilmente tutto corretto. Bisogna vedere se quelle variazioni abbiano inciso o no sui parametri dai quali dipende la rendita catastale, ma alla fine del discorso poi c'è una questione di correttezza e buona fede nelle trattative. E correttezza e buona fede nelle trattative vuol dire che quando si vende una cosa bisogna venderla in ordine. Una delle cose principali delle case, degli immobili, è la loro raffigurazione in catasto. E francamente, anche se i lavori fatti non siano lavori che incidono sulla rendita, mi sento di dire che un acquirente ha tutto il diritto di pretendere una bella rappresentazione catastale assolutamente conforme alla realtà. Certo, è possibile, notaio Busani, che questo architetto non abbia all'epoca suggerito a Paola Emilia di fare la segnalazione al catasto proprio perché magari la variazione ai fini della rendita catastale non sarebbe stata particolarmente rilevante? Ma è quello che io mi immagino, mi auguro. Ci sono tantissimi casi che proprio emergono in questo periodo dove tanti venditori dicono ma a me è stato detto che non c'era bisogno di farlo. In effetti c'è una precisa istruzione del Ministero delle Finanze nella sua ripartizione afferente alla gestione del catasto. Oggi però quell'istruzione è stata esplicitamente abrogata dalla circolare che l'Agenzia delle Entrate ha emanato in luglio, che se non erro si chiama circolare 2/T, di cui solo 24 ore ha dato ampio risalto, dove il Ministero è tornato sui suoi passi e ha detto in effetti 15 anni fa, 20 anni fa abbiamo emanato quell'istruzione, ma adesso la consideriamo non più plausibile. Parentesi aperta, a mio parere, a conferma del fatto che si trattava di un'istruzione più materiale che giuridica, discendente dalla considerazione che il catasto era sommesso. Quindi in soldoni, per chiudere la questione e dare un'indicazione a Paola Emilia, se non deve vendere la casa la sua situazione può rimanere tale quale. Qualora dovesse decidere di mettere in vendita la sua abitazione, Paola Emilia deve fare questa segnalazione al catasto e quindi permettere all'acquirente di avere una chiara rappresentazione della realtà. Sì, una leggera sottodistinzione, se fossero variazioni che invece incidessero sulla rendita, l'obbligo ci sarebbe comunque, perché tenere la casa in una situazione di raffigurazione catastale non conforme incide sulla rendita e quindi incide sul pagamento di ICI e di IRPEF. No, questa è una cosa interessante. E se in questi 14 anni, appunto, visto che Paola non ha fatto la segnalazione al catasto, non ha fatto questo aggiornamento al catasto, ed effettivamente risultasse una grossa differenza di rendita catastale, va incontro a qualche sanzione denunciando oggi la situazione, Paola? Speriamo di non doverci porre questo problema, trattandosi di abitazione principale, quindi tutto sommato estranea da tassazione. Però se non fossimo in questa evenienza, fosse una seconda casa, fosse un immobile diverso da un abitativo, in effetti un problema ce lo dovremmo porre. Paola, magari ci scriva con qualche dettaglio in più e le faremo sbrigare questa faccenda, ci faremo aiutare dal notaio Busani in privato, non mi oderà il notaio, lo faccio subito rimettere al lavoro in maniera intensa, già neanche sono finite le ferie, ma so che ci aiuta sempre molto volentieri. Notaio Noto, ritorno da lei invece per l'attestato di certificazione energetica, poi vado anche da Giovanni che ci sta chiamando, si è prenotato con una chiamata appunto da Palermo. L'attestato di certificazione energetica, allora da qualche tempo ogni casa dovrebbe teoricamente dotarsi della cosiddetta pagella di quanto consuma. Questa pagella è obbligatoria nelle transazioni, in certi casi anche sostituibile con un'autodichiarazione, ma ecco, ci può dare qualche dettaglio in più rispetto a questo? Io lo ricordo, abbiamo dedicato tante puntate di Salvadanaio a questo tema, ma la recente manovra correttiva non ha portato ulteriori novità rispetto a questo punto, a questo certificato, vero? Beh, come in molte materie, anche questa materia ha avuto un'evoluzione prima di entrare a regime, come si dice. Si è partiti con un documento diverso, che era un attestato di qualificazione energetica, detto ACQUE, per passare adesso recentemente all'ACE, l'attestato di certificazione energetica, che è uno strumento essenzialmente informativo, ha una validità, un'efficacia, diciamo, di 10 anni dal momento in cui è stato steso. Ci sono alcuni edifici che vanno dotati a prescindere dal fatto che venga trasferito oppure no. Quali, per esempio, notaio? Sono gli edifici che sono stati costruiti sulla base di un permesso richiesto a partire dall'8 ottobre 2005. Questo perché dall'8 ottobre 2005 è entrata in vigore una normativa che chiedeva degli standard di costruzione che hanno dato luogo a questa possibilità. Per quelli che invece hanno gli edifici costruiti prima, al di là che ci sono altre categorie che hanno la necessità di avere ma è per semplificare il concetto, diciamo per i nuovi edifici, cioè i vecchi edifici, quelli costruiti prima dell'8 ottobre 2005, l'obbligo di dotare di certificazione energetica sia in occasione del trasferimento. Uh-huh. Un'utile informazione per gli ascoltatori può essere quella che la donazione tra padre e figlio, per esempio, è esente, perché sono solo i trasferimenti a titolo oneroso per i quali occorre consegnare questo certificato energetico. Quindi la donazione tra padre e figlio dell'appartamento familiare non necessita di questa prescrizione. Perfetto. Ma invece se uno lo vende in permuta o anche normalmente nella vendita, deve dotare dell'immobile e consegnare questo documento, che è uno strumento che probabilmente, andando avanti nel tempo, in qualche modo influenzerà anche il mercato, perché almeno sulle prime case le spese di gestione anche sul piano energetico e quindi i relativi costi di una casa possono interferire sul valore di mercato dell'immobile. Certo, poi un altro aspetto, adesso io devo dare suggerimenti perché in viaggio, notaio, ma magari poi ci ritorneremo su questo punto perché è molto importante. Un altro aspetto è che questa materia ha delle linee guida nazionali per sono le linee guida proprio per la certificazione energetica, ma poi c'è su ogni regione anche una specifica disciplina che magari comporta proprio modalità pratiche e operative di comportamento differenti. Per esempio, so che la certificazione energetica va allegata obbligatoriamente al rogito in Lombardia, mentre così non è per esempio in altre regioni. 30 secondi sinteticamente, poi magari ci torniamo, notaio. È così? Sì, è così. All'interno di un potere delegato, 5 regioni sono intervenute, tra cui la Lombardia, e per esempio io che lavoro in Veneto. Se vendo un immobile da una parte all'altra del lago, devo fare molta attenzione alle normative che sono diverse, ecco. Proprio perché il Veneto non è intervenuto sulle linee guida nazionali, mentre a Lombardia sì, e quindi un appartamento venduto a Sirmione ha delle prescrizioni diverse da quelle di un appartamento a 2 chilometri a Peschiera, proprio perché l'allegazione dell'ACE è obbligatoria per gli atti su immobili in Lombardia e non per il Veneto. Benissimo. Giovanni da Palermo, buongiorno. Buongiorno a voi. Caldo a Palermo? Caldo. Parecchio, oltre i 30 gradi, sono in macchina, me ne segna 33. Insomma, sì. Un dignitoso 33 gradi per una fine di agosto, d'altronde è piovuto fino praticamente all'altro ieri dappertutto, quindi vabbè, abbiamo un po' divagato sul tempo come sempre. Giovanni, ci dica. Senta, io intanto vi ringrazio per avermi consentito di porre il mio quesito. Allora, io ho acquistato un appartamento in fase di costruzione. All'atto del rogito io già abitavo l'appartamento come altre persone che hanno fatto l'acquisto. Sì. All'atto del rogito circa un anno dopo appunto che io ci abitavo. Quando ha rogitato? Quando l'ha acquistato, Giovanni? Nel 2006. Uh-huh. 2006. L'impresa nel rogito, eravamo lì dal notaio, era indicato che si impegnava al rilascio dell'allora certificato di abitabilità, perché aveva già avviato le pratiche presso l'amministrazione comunale. Distanza di anni, sono passati oltre 3 anni l'impresa ancora non ottemperava quello che era questo impegno. Quindi ci siamo posti tutti la domanda, il quesito, chiedendo all'impresa il come mai. L'impresa diceva che era tutto a posto perché aveva trovato, perché c'era l'architetto dell'impresa che aveva fatto una perizia giurata che diceva che tutto era ok. Ci siamo solo accorti andando presso il comune, l'ufficio tecnico, che invece c'era qualche irregolarità dal punto di vista urbanistico. Allora, siccome ancora allo stato non è stato risolto nulla, questo cosa può comportare in un'eventuale mia decisione di vendere? E quindi oltre che al valore dell'immobile, il problema che può rappresentare anche all'eventuale acquirente se dovesse fare un mutuo, Certo. Mutuo che tra l'altro io ho e che mi è stato rilasciato dalla banca, anche loro sapendo dell'impegno dell'impresa al rilascio della certificazione. Giovanni, la ringrazio, io ritorno, visto che così un po' a spanne l'ho fatto parlare un pochino meno, allora ritorno dal notaio Noto per farci dare la sua interpretazione rispetto a questa situazione, poi siccome però sul certificato di agibilità abbiamo fatto una lunga conversazione all'inizio puntata con il notaio Busani, ritornerò anche da lui. Però notaio Noto, allora, che cosa le suggerisce questa situazione di Giovanni da Palermo, rogitato nel 2006, l'impresa di costruzione sembra non abbia mai ottenuto, addirittura ci sembra anche impossibile per una impresa che ha costruito così di recente non aver ottenuto il certificato di agibilità da parte del comune di Palermo. Di fatto Giovanni è il sospetto che ci sia qualche irregolarità urbanistica del quale questa impresa si sia macchiata. Che cosa può fare adesso? Allora, un po' mi dispiace per l'ascoltatore, anche se può consolarlo il fatto che il suo caso, ahi lui, non è isolato, ma vi sono molti casi di questo genere. E questo rafforza la mia convinzione che illustravo prima, per la quale insomma è necessario che i comuni in qualche modo non lasciano nell'incertezza imprenditori e cittadini. Mi lasci anche sottolineare un altro aspetto, perché molti ascoltatori spesso quando facciamo queste trasmissioni sollevano altre perplessità, ecco l'ennesimo balzello, tanto per far guadagnare professionisti, geometri, ingegneri, architetti e quant'altro, e poi come vedete invece qualche volta magari un'incombenza burocratica in più ci può anche mettere a riparo da tanti problemi che possono verificarsi, che poi possono venire alla luce solo in un momento successivo, e quindi è bene che sia tutto a posto. No, è una sottolineatura banale, magari, però. D'altronde io trovo a dir poco sorprendente che un fascicolo per la costruzione di una casa sia formata da etti, se non chili, di carta e non abbia invece l'unico documento che in definitiva dà un riscontro del risultato finale di questa operazione. È come uno che comperasse una macchina, un'auto, e avesse delle chiavi di plastica senza sapere se le chiavi di ferro mappate vengono consegnate oppure no. Quindi sul piano, diciamo, della risposta ai cittadini, io torno a dire, ritengo che questo sia un problema molto sentito e vada risolto. Detto questo, caso dell'ascoltatore di Palermo è la cartina di tornasole, intanto perché lui ha acquistato un immobile che privo dell'agibilità per giurisprudenza consolidata potrebbe essere un bene inidoneo all'uso per il quale è stato venduto, quindi l'immobile ha sicuramente un notevole deprezzamento, e anche se non è incommerciabile, come diceva prima il collega Busani, in senso assoluto, è un immobile però che vale molto meno ed è un immobile che sicuramente ha un valore diverso, sicuramente ha un valore diverso rispetto a quello che potrebbe avere in mente Giovanni qualora lo volesse vendere. Questo è anche il motivo perché normalmente negli atti noi facciamo inserire delle clausole qualora sia concordato la vendita prima del rilascio dell'agibilità, nella quale l'imprenditore garantisce addirittura il fatto del terzo, cioè è una responsabilità quasi oggettiva, garantisce l'adempimento da parte del comune nel rilascio dell'agibilità. Perché chi deve essere garantito deve essere il cittadino tira fuori dei soldi buoni oggi e non deve interessarsi se l'imprenditore ha dei problemi col comune oppure no, perché poi, come ripeto, in alcuni casi è difficile stabilire se il silenzio assenso si è verificato, se ha ragione il comune o se ha ragione l'imprenditore. Infatti Giovanni ha parlato peraltro a un certo punto di una dichiarazione giurata di un professionista. Detto io questo, Giovanni, questa oggi ecco a questa giurata non abbia alcun valore. No, non voglio dire che non abbia alcun valore, perché ci sono alcuni casi a seconda dell'intervento in cui se l'ha giurato al telefono del costruttore, non credo che abbia un grande valore. Esatto. Io ti giuro che questa certificazione arriverà Allora, notaio, io non voglio essere maleducata, ma abbiamo 3 minuti di tempo, quindi vorrei così una sua idea su come potrebbe muoversi a questo punto Giovanni per venire a galla, per venire a capo di questa situazione. Intanto a capire se il certificato di abilità, di agibilità esiste o magari non è stato consegnato a lui e ai suoi colleghi che abitano lo stesso stabile, e qualora volesse mettere in vendita la casa, a che problemi va incontro? Allora, il mio consiglio è quello di, in brevissimo, uno, andare in comune, prendere un appuntamento per chiarire, fascicolo alla mano, se effettivamente si sono verificati gli estremi in desidenza o assenso e quindi si può ritenere che l'agibilità c'è, e se non c'è, per quali motivi e questo non è stato rilasciato. Appurare, in qualche modo costringere il comune a una risposta. Infatti, appurare poi l'esistenza di queste irregolarità dal punto di vista urbanistico, delle quali Giovanni ha sentito parlare. E ecco, poi, secondo caso, attivarsi decisamente e energicamente nei confronti dell'impresa, perché l'impresa non può ciurlare nel manico, come si dice, deve garantire il rilascio dell'agibilità, perché altrimenti l'immobile è inidoneo all'uso per la quale è destinato. In caso contrario, il signor Giovanni dovrà far causa all'impresa, ecco, perché si tratta di un classico caso di aliud pro aliud. Per questa adesso ci spiega anche che cos'è, ma per questa situazione Giovanni è sanzionabile in qualche maniera, no? Giovanni è vittima. Giovanni è vittima, però ci può rimettere dal punto di vista patrimoniale, che è quello che abbiamo detto, in mano prima un immobile che non è quello. No, che perché non vorrei magari che fosse anche beffato, oltre che danneggiato. Lorenzo da Novara, un caso simile, ci dà l'opportunità di chiudere la trasmissione poi con il notaio Busani, che so già avrà sicuramente qualche altro aspetto da puntualizzare sul caso dell'ascoltatore di Palermo. Lorenzo da Novara, a lei che cosa è successo? Rapidissimo, se ce la fa la ringrazio. Buongiorno, sono in linea? Sì, sì, in diretta. Ottimo. Dunque, ringrazio tutti e brevemente. Allora, io stavo cercando una casa per me, ne ho trovato una che mi piaceva, ho controllato il tutto, mi sembrava tutto a posto, tramite agenzia. Ho guardato la planimetria catastale, mi sembrava tutto a posto, poi mi sono accorto che c'era una mansarda e praticamente mancava il disegno di un abbaino. Di un abbaino, di un abbaino. Allora, nel precontratto che ormai ho già fatto, ho scritto che ci fosse la garanzia, che ci fosse l'abitabilità al 100%, e volevo andare appunto al notaio per fare il precontratto. Niente, praticamente è successo che guardando le cose, poi anche tramite l'ufficio tecnico comunale, si è scoperto che questa casa qua in realtà non è come da disegno catastale. Sì. Praticamente è agibile al 50%, in realtà sarebbe una specie di monolocale, sì. Tutto il resto è semplicemente una zona di, come chiamarla, non lo so, lavatoi, come le chiamano. Non ha l'abitabilità, in sostanza. Quindi Lorenzo, mi interessa anche un aspetto che veramente questo è un aspetto che mi interessa, ma che, al quale dovremmo dedicare un'altra puntata. Ovviamente anche gli agenti immobiliari che hanno fatto le intermediarie dell'affare erano completamente all'oscuro di tutto questo, o secondo lei hanno in qualche maniera? No, loro mi dicono di sì, assolutamente, cascano anche loro dalle nuvole. Adesso non so come far muovermi, nel senso che ha già dato caparre lei, Lorenzo, si è già impegnato. Già dato certo. Sì, mi sono impegnato con l'agenzia. Il venditore mi dice che non si sente impegnato nei miei confronti. È tutta un'altra storia, ma vorrei capire un attimo come muovermi. Lorenzo, si fermi lì un minuto di tempo, notaio Busani, non riusciremo mai a risolvere il caso di Lorenzo, ma così a spanne intanto cosa può fare il nostro ascoltatore? No, ma lo risolviamo, non c'è nessun problema, perché l'Italia è costellata di questi casi, cioè di locali nel sottotetto o locali nel seminterrato, i quali in gergo tecnico non cubano, nel senso che non sono considerati nella volumetria consentita dal permesso di costruire. Allora è prassi dei costruttori vendere questi locali dichiarati inabitabili in comune come locali abitabili, o meglio, è prassi del costruttore mettersi d'accordo con l'acquirente di praticare un prezzo inferiore per questi locali, puntando sulla loro abitabilità di fatto, perché nessuno impedisce di metterci un letto in una mansarda, però con la considerazione a priori, nascosta o meno nascosta, non voglio entrare nel merito, del fatto che questi locali sono per il comune inabitabili. In sostanza sono spazi a servizio di questo fabbricato che però non potrebbero essere abitati. Quindi, notaio, devo chiudere. Quindi cosa facciamo fare a Lorenzo? Ah, o la compra così o si rivolge da un'altra parte. Ecco, benissimo. Magari perde anche la caparra che ha già versato, l'impegno con l'agenzia. No, speriamo di no, perché la caparra gli è dovuta in quanto lui aveva diritto a comprare una cosa nella perfetta abitabilità. Perfetto, quindi le caratteristiche che gli erano state indicate non sono state rispettate, quindi magari su questo potrebbe poggiare la sua contestazione, che ci sembra del tutto legittima. Lorenzo, ci scriva e magari le daremo anche una consulenza per iscritto un po' più dettagliata. Adesso non abbiamo tempo di farlo. Grazie ai due notai che sono stati con noi stamattina, Angelo Busani, Gabriele Noto. Li rimetterò insieme naturalmente molto presto, perché questo è un tema che ci appassiona sempre molto. Noi intanto di Salvadanaio ritorniamo domani.